te sei occupo, dormi tu sì. No, sono qua, non sono dormito. No, siamo a casa. Meglio sì. Meglio, mi sto guardando il computer. Non c'è un cane, era di 3 mesi, a Cesare, a radio. Manco una piccola. Tre e mezzo. E invece qui mi riposo sempre il pomeriggio. Ti ha messo le tutelle perché domani veramente. Domani ha messo neve, e l'ho preso. Non c'è pelle che da nessuna parte. Ma chi lo sa, si dice lo dimostri. Vabbè, Marina per fortuna ne ha trovato 2 sacchi, lì da Conad. No, io 3 sacchi a Città Mercato, fa fortuna. E uno ne avevo 4. Adesso domani il vedo, grazie. Tanto può scendere da Bricomen. Ma con la Bricomen non ce n'è. Non hanno sbarcato i rimuti, hanno imbarcato per il maltempo. È della serie che non i rimurchi non... come si dice, non vengono perché c'è la neve, giusto? E allora, non l'hai vista il telegiornale, ha fatto neve anche a Roma. Non ci sono neanche scuole, troppa neve. No, ma quello non ne ha messo neve a Sassari, io sto guardando dal telefono. Sì, tutto il nord della Sardegna, altezza a 500 metri. Noi a quanti metri siamo? Noi siamo a quota 5500 metri. E vai, e vai. Ma è vero. E è vero, è vero. Bebe. A che quota siamo natali? Non lo so. Io in campagna ero a 426 metri sul livello del mare. E lì ne fa 2 metri di neve. Qua saremo a 200, cosa ne so, qua in città. Comunque ha segnato un grado sta segnando. Cioè noi sono 7, stanotte 1 grado. Sì, già nevica, se scende a 0 sta nevicando. Capito? L'ha detto in televisione che metteva neve anche nei livelli più bassi. Catta, ma ti come a calvizi? Se stanotte scende a 0 nevica e trovi... Aspetta un attimo, questo fa la mia musica. Se stanotte scende a 1 grado, nevica. No, per nevicare deve scendere a 0 gradi. Se non si va a 0, sta fioccando di brutto. E domani ce ne alziamo con un bel manto bianco. Sì, meno 1 domani ha messo. Meno 1, precipitazioni, vabbè la neve ha messo, è vero. Via, io sento la televisione. Ma bisogna vedere se scende. Se scende a 0 già nevica. Però bisogna che scenda a 0 gradi. Meno 1, oppure 0, oggi 0, stanotte 0, però domani martedì meno 1. E adesso tutto il nord della Sardegna, noi siamo al nord. E allora? Bobo, la salva, gli ha fatto in terra. Aspetta che sto comprando, capita. Caglia di muso, azzitta. Non ho capito, no. Caglia di muso, perché devo stare zitto? Perché gli sto mandando il messaggio e non lo sento bene quello che mi dice, che è vocale. Sento basta un volume. Andati! Che sto ordinando qua, per l'obbe, per Pasqua. Ah, ordinando stai? Porcetti, capretti, agnelli, ricotte mustie. Sì, c'era un amico che era vende buona ricotta mustia, La porta un tipo che lavora il venerdì che al circolo da questo mio amico là, diciamo. E la porta va buona, guarda, una squisitezza. Aspetta un attimo. Catarino! Mustafa, ricotta. Mangiato sì. Un cioccolato. Non c'era nessuno, mi ha acceso adesso il computer. qua, non ci sono voluti. Ma vero? Chi è? Io so. Cosa? Aspetta, tagli. Ehi, a domani mi divisi un lugare, mi si... Significa mi diverto, lo faccio a beffa. Sì, poi c'è bella neve, per carità. Sì, vabbè. Lui non ne ha mai visto. Che piccolino. E si rotola nella neve domani. Ma non lo senti a Natalino, buffo? Ehi, no, l'ho sentito a tratti poco fa. A Natalino. Ciao Natalino. Mangiando stai? No, negativo, io sto mangiando. Mi sono bisogni. Copiato l'hai, buffo? No, parlato. Tanto era zumbito, era dormito, era. Oh, la pennichella sta qua, se pure lì. Bebe, sorrino troppo, roba da macchina. Stamattina mi sentiva bene, adesso oggi no. Boh. Ellu! Un attimino, arrivo. Ellu! Ecco, la te cercano dove è al computer, no? Se per comprare mi si grazia. E gli agnelli lì, su e li compri. No, dal pastore. Ah, pastore male in mano? Un pastore cattivo, Se si incazza, uiuia. Questa mi piace, doppietta. Doppietta beretta. Modello 627. Calibro 12, disponibilità limitata, usata, 2000 euro. Che cosa? Una? Doppietta! Icchia, no, i 2000 euro, 200 euro se li vuole. 2000 euro, è bella, tutta cromata, calcio tutto bello lucido, lucido, A me mi piace, è questa, usato, 5005, certo, però è bello, un sovrapposto, modello, 103, disponibile, massa sicurezza 500 euro, troppo. Troppo sì. Ma ce ne sono più barati, 1.900, usatemi sono anche, noi ci sono nuovi, non ti abbassano a portare appunto, usati, però devi trovare l'occasione che non si è fruttato un bene, questo è un calcolo sentito, ma non mi piace. Ce n'è una sportiva, ma costa troppo, 4.500. Ma 4.500 euro mi migliora la macchina. Ma questa è di quelle moderne, per esempio ce l'hai quelle che hanno la polizia. È moderno, non è una specie... Adesso non mi ricordo che materiale è quello. Ed è questo. 10 colpi, 100. Però... A me mi piacciono più quelli in legno. Una pagina, ci sono tante pagine. Ogni tanto ne faccio una e me la paghi. Ma in carbonio sono quelli della polizia? Eia, ma a me non mi piacciono. No, mi c'è un altro usato. 1770. Non mi piace. Fare il giocattolo in bar. Lo so. Allora, mio fratello c'aveva la doppietta, Benelli. Mi ho visto un paio poco qua. Cazzo, ma le vogliono troppo care, nonostante sono a seconda mano. Chi ci sono macchine? Tanto vari uno. Si fa una finanziera e si rabbiglia nuova, o no? Per il prezzo che le stanno vendendo usati, è troppo. Certo. Ehi, non li vendono, quando vedono che non li vendono, altrimenti la baciano, i primi. Ma fino a che ce li portano in un negozio e fanno nei cortei, già 7.009, ma che ci sono fatti? 1.140. Ui. Costano. Ma costano troppo, te era 1.600, questo l'hanno buttato 1.400. Ma non stai andando. Cazzo, mi sembra nuovo, quello che costa 1.800. Nuovo però, senza essere usato, e questi sono usati. Lo so, mi sto andando anch'io adesso, ma a me piace un po' le pistole. Che, Nagio Bicciuti, l'ultima cosa che avevo fatto era la beretta, la FS92, 8 colpi. Aspetta un attimo, grazie, devo ascoltare un messaggio. Gufo! Chi è? Gufo, 23 siamo. Ma non è attacco 27 adesso. Chi ha fatto mal del re? No. Dite Gio Maria, che voi sei in laino. Ma che non ti danno a casa io due su cazzo di bip. La razza di vestimenti, boh. È fastidioso quel bip, quello. Mamma mia, lo gole di piglia, boh. Ma non lo senti. Ah, te ne so, boh. Oh, iaia, accaentava. Quelle sono le cose fastidiose, uno non si gioca, non ha frequenza, capito? Così, ma sta cosa fa? E allora ti gioca l'istituto, non sarebbe? Beh, sicuramente non sa cosa fa. Oh, iaia. Ehi! Gufo! Ehi, altro giornale l'hai visto? Non mito solo. L'hai visto il tempo al telegiornale? Aspettando. Cosa hai detto lui? Ho capito, grazie. Che te l'ho detto che domani fa neve. Ha detto tutto il nord della Sardegna. Quote di altezza anche a 500 metri. E lasciala fare. Cosa vuoi che ti dica? Io già c'ho il calduccio qua, non devo uscire. Dunque, mandare. Anzi, tu sei meglio con quelle palle di neve. Che vuoi? Vabbè, dai. Provato la giù. Guarda qua, guarda là, guarda qua. Attento, Nattarino, Nacchi. A me intende, se? Nattarino, mi senti? Io già ti sento. Nattarino, mi senti? Non ti sento. Paravolsivo. Attento, Giulio! Infatti non ti sento. Vabbè. Passa allora a canale monitor, dai. Passa a canale monitor, lì già ti sento. E Lorando, avanti. Dormito, sì. Aio, mettiti a piombo che non ti sento. Ho detto dormito sei. E allora, dormito sono, no, addormentato sono. Ah, sei sveglio o dormito? Addormentato sono, non dormito, addormentato. È vero. È vero, Aspetta un attimo che Natalino è in canale monitor. No, aspetta, guarda se mi senti giù. Ah, io lo sento Natalino, Natali. Eia, è Giulio che non mi sente, capito? Giulio non si sente perché è dormito. Addormentato sono, non dormito. Che avevo l'antenna mollata qua. Senti, Luca. Luca! Luca! Oh, Luca, te rispondi. Aspetta un attimo, Giulio, dimmi Natali. Adesso sei... Soldatino! Allora ti chiamo Soldatino, sì, sì. Mollata qua. Aspetta, Giulio, sono sopra. Non ci stai, non stai arrivando. Non stai arrivando. Mettiti, lo vedi prima, se no non ti sento. Aspetta, Giulio, un attimo, Natalino. Ma allora è per quello che non ti sentivo. E adesso mi senti? Mi senti adesso giù, Luca? Natali, anche un po' la piombo, un bitante è andato a riportartene. Giulio, mi senti? Ehi, Luca, dimmi. Ma mi senti a me o no? Luca, mi accendi subito che ti sento, Giulio, e poi non sparisci. Guarda se mi ascolti adesso, Giulio, 1, 2, 3, prova. Mettiti in una posizione dove ti sento, ti possa sentire. Io sono qua, Giulio, sono qua, fermo. Dove ero prima? Adesso ti ho sentito, ma ogni tanto mi chiami e poi sparisci. Cosa vuoi ti dica? Natali, ci sei? Già ci sono io. La Giulio lo senti? Io già lo sento, e lui che non mi sente. Io non lo sento, Natalino. Altro non ti sente, Natali. Lo so che non mi sente, perché è col gommino. Forse mi conviene andare al 10. Attento, Giulio. Giulio, mi senti? Giulio. Grazie, ci sei? Dimmi. Io sono passato al canale 10, c'è Natalino e Giulio. Vai tranquillo. Adesso non è affatto il 27, è già tardi. Lì però, tocca. Stavi chiamando Mari. Ciao Mari. Franco, ci sei? Franco? Franco, ci sei?